Giulio. Ciao a tutti. Quello killer è l'una rossa anche, faccio il l'una rossa. Ci faccio male anche così. Per me, scusate. Ciao a tutti, ciao Riccardo e ciao Luca. Sì, ma è così. Io da poco, io ho un video. Io la settimana scorsa avevo fatto un ex con lui. E lui mi ha fatto un video, poi me l'ha mandato. Ok, sì. Per farmi vedere come arrivavo lì da lui. E al vecchio. No, non mi stavo orientando, assolutamente. Se consideri dopo l'antenna, è in basso. Se l'avete fatto, magari... Oh, non è detto, alla volte non è detto, perché secondo il lobo di radiazione, quando è più alta c'è più rumore, basta. Dipende dai momenti, cioè dalla posizione alle volte, da dove sei come ubicazione, là. Ho trovato il video, vado a vederlo, a dopo. Ma siamo contatti tramite computer, tanti saluti da parte mia, la Dadi, o Marco, fa la cortesia. Ma io non ci sono su Facebook, capito? Dunque non posso mandare i saluti, ma ci siamo sentiti più volte per tramite propagazione, eccetera, eccetera. Anche da poco, là. Vabbè, ci sono, ma non chatto mai con nessuno, per cui io faccio solo lo spione. A Luca non vado sempre a pancia all'aria, lui cambia look ogni giorno quasi. Lui già c'è, ma vedo tutti quanti. Non solo Luca, Natalino, Tino, Claudio, tutti vedo, tutti quanti ci siete. Solo che io non sono anonimo. Ma non mi interessa, non mi è mai attratto Facebook, la verità. Mi faccio contatto per vedere. Più che altro poi, guarda, solo per guardare, passare 10 minuti così. Però il computer lo uso per altre cose io, non per chattare su Facebook. Anche Principe, come si chiama, Stefano, ho visto, decine di gente, tante persone. Fabrizio, tutti ci siete, insomma, sono io Marco, ci sono ma sono anonimo, ci sono ma sono sotto un controllo, vai, sono sorvegliante, allora, un sorvegliante è un incognito, sicuramente c'è anche Riccardino, ma lì la radio di Mr. Bumble però. Non lo so, dico, ci sarà, ho detto, anche di Cardino, è quello che ho detto. No, Antonio sto dicendo che quella lì è... sarà lui Mr. Bumble, perché c'è scritto Mr. Bumble sulla radio. No, sì, tu no, sto dicendo a te, cosa per quanto riguarda il PIP e la VG? E l'ho visto. Insomma. No, vabbè, comunque lui ha detto che si misura in PIP. La VG si misura in banda laterale, infatti la potenza è sempre la stessa. Allora, io ho notato però stamattina, adesso non mi ricordo se in VIP, non mi ricordo, di dire una stronzata. Giulio, tu c'hai le Diamond 6200 come rosmetro? No. Le otte non già vanno bene tutti e tre, però non mi fido, due sono della ZG e uno è piccolino, la macchina, non è vero che, e due quelli della ZG sono anche accordatori d'antenna, ma mi voglio comprare SX200, mi voglio comprare, adesso appena che incomincio ad uscire, perché non sto uscendo, poi io tra l'altro, non faccio ordine col computer perché ripeto non lo so usare e allora faccio un messaggio su WhatsApp, se non lo mandano va bene, se non sono denari che se ne frega. Giulio, sei un po' troppo alto di radio, se potresti abbassare un po'. Me lo potevi dire da lì, aspetta. Sei un bel alto la radio, un bel ribombante. Intanto stiamo adesso. Prova. 1, 2, 3. Fui che ti canto la canzone. Sono stonato però, eh. Adesso va più meglio, anzi più migliore. Stai parlando di italiano porchettino? Sì, guarda WhatsApp, Giulio, se ce l'hai a portata di mano. Sì, sempre a portata di mano. Sempre attaccato alla parte sinistra è quello. Ah, sì. Mezzuga, è mezzuga, anda bene. Davvero. Vabbè. No, c'è una cana, guarda. Siamo con nuda. Siamo forse nuda, non c'è qua più cana. Visto. Guarda, io pochi giorni fa ho guardato le istruzioni del Diamond 200, quello che mi aveva consigliato Giulio, e diceva esattamente questo: in AM e FM usare la potenza VG, cioè misurare in AVG, in banda laterale usare la PEP. Ecco perché adesso mi spiego certi linearoni, no? Che sparano fuori centinaia di watt in AM modulati. In realtà è... non è reale, ecco. Ehi. Luca, l'hai visto anche tu o no? Sì, bello quel Rosmet 801. 901 volevo, ma poi non so me ne voglio per misurare stazionario una volta all'anno, ma per carità. Oh Luca, scusate, Luca, ma mia voce costa 75-76 euro. Naturalmente poi c'è anche il trasporto, mi sembra che sono 7-8 euro. No, non ho trovato la cifra io, Giulio, se vuoi ti mando il coso. Quasi 90, aspetta, non mi dico 90, 92, boh. Te lo sto dicendo, secondo dove l'hai comprato? Io l'ho visto più volte, costa 70, adesso non mi ricordo se è 72 o 76, più quel trasporto. Non insisto, però aspetta, dico quanto l'ho pagato io. Sì. Diamond. Eia. Allora, eccolo qua, spedito. Allora, costa, se c'è, 82 più 6, 90, allora, 82 più 8, 90, l'ho pagato 93,90. Sì, l'ho visto anche quello, penso. Però c'è un negozio che adesso non mi ricordo qual è, forse Media Globe, forse, non mi ricordo, però, che è 76 più trasporto. Per il trasporto mi sembra che sono 7-8 euro, non me lo ricordo bene. Confermo, Media Globe è il prezzo migliore e ce l'ha in arrivo, a meno che non sia già arrivato. Appunto, ed è anche per quello che ancora io non l'ho ordinato, proprio perché li hanno esauriti ed è in arrivo. Ma me, guarda, abbassa e avanza questo qua. Infatti, come dice Marco, mi misuri una volta quando te ne ricordi, infatti ho staccato, non mi sono mandato la scatola, cosa me ne importa attaccare? Due. Vabbè, quello è un altro discorso. Se te non ti va di te lo ha attaccato, però c'è quello che lo tiene sempre fisso attaccato, va bene lo stesso. Perché ti prende un minimo di segnale. Vabbè, cosa me la putta a me, se arrivo dove fico, o se arrivo Santiago 8, grazie a tutti, non me ne frega niente. Io sono così. No, vabbè, diciamo che il discorso è alla fine te ne fai qualcosa o non te ne fai niente. Però meglio sempre averlo perché non chiedi niente a nessuno, ecco. Io la penso così. Beh certo, quello è importantissimo. Tra l'altro è anche uno strumento serio. È anche uno strumento serio se vogliamo. Non è uno ZG. Se fosse stato uno ZG, non l'avrei comprato. Un ZG lui, te lo sto dicendo. Uno a proposito, uno me l'aveva dato. Antonio me l'aveva dato. Te lo ricordi tu? No. Adesso non mi ricordo come si chiama. Aspetta un attimo, te lo dico, che apro il cassetto e lo guardo. Allora, l'ho visto, no, questo qua, praticamente così, sembrava messo in una station, no? E lì ho pensato, ho letto nuovo, ma tipo gli ho mandato un messaggio. E gli ho scritto, ma scusa, ma è nuovo questo Rosmetro? E lui sì. Infatti lì dopo qualche... però non prendi dopo le scatole, mandati i messaggi, no? Ci dico che sempre mandato senza scatola. Infatti volevo chiedere a te, tu, stavo uno spedito con la scatola, la Rosmetro? No, anche a me mi ha mandato lo scontrino, il coso, tutto mi ha mandato. La scatola è nuova. Nuova. Con il coso in polistirolo. Non ti dici, mamma, in colesterolo. HS 230. Parlate una volta, cosa hai detto Giulio? scusate, Antonio, HF230, tu? Sì, HF, la marca è così, HF230. Sì, sì. Giulio. Sì, dimmi. Allora, sì, da Media Globe in arrivo, però rettifico, 74,90 euro, quindi circa 75 euro, più spedizione per pare sia 7-8 euro, non mi ricordo adesso. Dunque è un bel prezzo, è il minore di tutti i venditori di roba amatoriale. E alla fine ho pagato 10 euro in più e sarà furto. Te lo sto dicendo, io me lo ricordavo, io avevo detto 76, mi ricordavo, guarda, della verità mi ricordavo 72 o 76, invece tu mi stai dicendo che 75 qua è così, sì, ma è così, non me lo ricordo, e mi piace anche, esteticamente è anche bello. Invece gli è già arrivato il Daiwa 901 HP, quello ad aghi incrociati enorme che ti dicevo, 147 euro, prezzo buono, mamma mia quanto è bello, però non ha giù di là, e avevo deciso di non prenderlo, però perché io non costruisco antenne, le antenne mie sono già collaudate, tutte quelle veicolari per la 27 sono già tarate, quindi no, non faccio altre spese. Sì, ma quello in altri negozi costa 200 euro quasi, Marco, in certi negozi quello costa 190 e qualcosa. Sì, qui la Media Globe è così, come hai detto tu, però in altri negozi ho visto il prezzo del 901, addirittura è quasi 200 euro, pazzesco, ma per 200 euro spendo 250, se devo costruire un'antenna mi compro un analizzatore di antenne che mi fa tutto. Conta una cosa, Giulio, anche che esiste la versione HP che è 2 kW e la versione HP 3 fino a 3 kW, quello a 3 kW costa un po' di più, dipende appunto dai venditori. Comunque a Media Globe vedo che su antenne, radio, baracchini, accessori in genere ha i prezzi più bassi di tutti. Sì, ma è così, lo so, io l'ho constatato tante volte, che Media Globe si accontenta di vendere a un prezzo più basso, evidentemente vuole vendere, ecco, rispetto agli altri. Gli altri mi sembrano un po' esagerati. Dai Luca! Vabbè, alla fine l'ho pagato 10 euro in più, non è che non saranno questi 10 euro in più che mi rovinano la vita, e via. Comunque già è molto delicato come cosa, è proprio un tasti belli, insomma, è bello come strumento, molto bello. Ma se non sbaglio quello di Antonio c'ha le levette tipo quelle delle baracchine, invece le mie le leve grandi, bello, sì. Va bene. Poi c'è l'alimentazione della lampadina, però la lampadina è gialla, è brutta. Adesso non so se lasciarlo così oppure mettergli una striscia LED sotto. Adesso vediamo, dai, perché con la striscia LED illumina bene, bello, bianco. E il mio fa VHF invece. Fa VHF il mio. HF VHF. Che vero? E ora tu, io l'ho preso, cosa ne so, 2 settimane fa circa, non lo so, non mi ricordo adesso. Ho usato 2 volte, una volta, la prima volta per provarlo e stamattina con l'attalino. Allora non ci siamo dentro la scatola, non ci fa niente qua. Poi alla fine spazzano le ombre, dovrei organizzare un piano bello per fare una piccola striscia, ma non è più grana, no? Rimane così quanti è. Ecco, no, aspetta, ma poi ne avrai altri. Quello quanto costa tu? Trovo di 100. Quello nuovo. Quale hai tu, Anto? Non è che ti ho mandato la fotografia di quello che mi avevi dato tu. Sei un pochino fuori tramontana, dai, di la verità. Anto, qua c'è scritto Telecom è uguale, 102 euro nuovo. Porta 102 euro, se no hanno abbassato. Non è più, allora questa inserzione è stata chiusa dal venditore perché l'oggetto non è più disponibile. Chissà quanti anni venduto, perché la gente ha ripreso a modulare, però aria bassa. Ed è tu, ed è mollato, c'è anche, chi è? Avete parlato in due. Ed è mollato anche CE, e cioè Comunità Europea. E guarda il telefono. E non te lo ricordi? Mamma mia, tanto sei inventato. Scusa se te lo dico. Manda. Va bene, dai. Ma non è che me l'hai dato ieri, me l'hai dato un bel po' di tempo fa, per cui forse per quello. Quel 1000 non c'è su eBay, c'è 600. 600, cazzo, 600 costa, che fa, da 1,8 a 160 MHz, 140, 525 MHz, 200 watt, 146, fallo 155 euro spedito. Oh, Antonio, ma il 1000, cos'hai, 1300 MHz pure? No, perché c'è il 1006, e il 1100 addirittura. Che non, probabile che il 1100 abbia tipo gli 800-900 MHz, ma ne hanno fatto così tanti e manco me ne ricordo, provo un po'. Ma sono giocattoli, giocattoli sono. E beh Claudio, non ti sentivo da un bel di giorni, tutto bene? Più bene di così, quando io non entro in radio sto bene. Giocattoli sono meglio dei ZG, se poco ma sicuro. Meglio dei ZG, poi c'è pure un pacchetto di gingommi. Su ZG fate strumenti, allora non ho mai fatto niente di buono a ZG. Guarda, io ho il Revrex professionale che va da 1.6 a 2 giga completo, senza duca nulla, tutto in automatico. Sai quanto costa? 170 euro. Vabbè, poi su date muno e va. Alla fine l'ho preso perché lo volevo prendere, per averlo, ripeto, per non chiedere niente a nessuno, attenzione. Alla fine utilizzato cosa te ne vai? Va. Anzi, bugia mia, 2.8, quindi figurati tu. Puoi attaccare qualsiasi cosa te la misura. Poi è chiaro che quegli strumenti lì da mettere sopra la radio sono anche brutti. Io uso quello di linea, dove fa commutatore d'antenna, raccordatore d'antenna, rovetro e vattimer, perché la T230. Con quello tu lo lasci attaccato e ce l'hai. Bello perché è bello da vedere attaccato alle radio e poi c'hai tutto sotto controllo, capito? Va bene, divertitevi. E anche di tiri che si deve ZG, che non servono a niente. Come vedo. Infatti a Sassi nessuno c'è l'HF, solo Claudio Sparviero c'è l'HF. Ma deve usare il baracchino come te però Claudio Sparviero, capito? E la gente che parla invece usa il 440, il 430, il 140. Lascia perdere tu. La legge uguale per tutti. Non mi dire che a Sassi ci sono baracchini omologati perché nessuno c'è il baracchino omologato, lascia perdere. Io, questo è scientificamente provato. Anch'io. Ah no, lo so, io non ne ho baracchini omologati, non mi interessa vedere, mi piace più il vintage dei baracchini omologati. Non andrei mai a spendere 160 euro, 180 euro per comprare un baracchino senza offesa per nessuno, 3.900, preferisco comprare un vintage 40 canali a 100 euro, sicuramente. Va bene, dai, sono opinioni diverse che abbiamo, lo sapete, a me i baracchini non piacciono. Riprendete, fate girare, dai, io rimango in ascolto, sono entrato solo così a dire questa stronzata. Se te ne hai comprato uno alla settimana, anzi in una settimana te ne hai comprato 4 o 5, qua. Sì, ma base però, non baracchini, io i base non li chiamo baracchini, per me già i base sono delle radio belle, tu lo sai, io le apprezzo tantissimo, anche se sono adattate, però sono molto belle. Sono i vecchi baracchini della nostra era che io ho sempre apprezzato, li sognavo quando io avevo l'HB23 a casa di mamma e andavo a casa di altra gente, vedevo queste cose mastodontiche, questi base a casa di Delfino Bianco, di Vincenzo, di Alfetta, Fortunato Bo, di Primo La Rossa, di Ernesto, di Toccai. Vedevo queste cose mastodontiche che rimanevo a bocca aperta e mi piacevano troppo, capito? Ho avuto sempre una grande passione per quel tipo di baracchino così. Infatti baracchini piccoli non ne ho, sono tutti base. Sì, vabbè, ma i gusti non si discutono, ci mancherebbe altro. Quello no, però ognuno poi si compra quello che crede naturalmente. Per comprare, intanto stavamo parlando di un Diamond, non stavamo parlando di un ZG, perché lo ZG l'abbiamo scartato a priori, prima di tutto. Abbiamo parlato di SX200, che è un Diamond. E dunque per uno che fa attività ciclistica ce n'è in abbondanza, ne avanza anche per quello che abita vicino, non solamente per chi se lo compra, perché fa anche il buco e tutto, e poi è un professionale, ma non è quello il discorso. Per avere uno strumentino serio bisogna andare su certe marche, incominciando appunto proprio con la Diamond o Daiwa e queste altre marche ancora. Per un CB cosa vuoi comprare? Uno strumento da 300 euro, cosa te ne fai? Se costa più del baracchino? Diciamo che sono semiprofessionali, non professionali. Semiprofessionali sono, funzionano bene, marche conosciute, aziende che hanno fatto sempre delle belle cose, ma i professionali possiamo parlare del Rerex, possiamo anche del Rerex, è la casa, una delle più grandi costruttrici al mondo proprio di apparecchiature elettroniche, strumenti da misura e soprattutto duplexer per l'antenna. Il Rerex è nato da lì, capito? E sono molto costosi, io quello più piccolo di tutti, ma ce ne sono anche più grandi che superano anche le 300 euro come strumenti, senza poi toccare la Vectronic, l'altro che hanno fatto, cioè tutti gli strumenti, basta che non siano ZG, quelli sono tutti semiprofessionali, con una precisione diciamo dell'85-95%. La ZG proprio a percentuale di misurazione non ti fa neanche il 30% rispetto a uno di quelli. Io l'ho provato prima con uno ZG e poi col mio Revex c'era una differenza di quasi il 50%, quindi fate il conto, il radio non funziona in DB, ho attaccato il Revex e mi dava 50 watt, sto parlando di un VHF base, con lo ZG che è quello ad aghi incrociati, insomma, che sembra che sia un professionale, invece è una grandissima gaggata, me ne dava la metà, me ne dava 30, ne mancavano 20 all'appello, capito? Tutto lì. Va bene, ok, sì, io compro, se compro e continuo a comprare, compro solo apparati baracchini, base, vintage, non baracchini veicolari, non mi piace, non mi piace usarli, non sanno di niente praticamente, non li spenderei mai soldi per comprare baracchini così, capito? A meno che non sia un baracchino d'alto livello, come può essere l'S9, come può essere un Cobra, quello appunto che c'è anche un Civigliano, ma altri baracchini così no, cioè proprio un 120 canali, 160 canali, uno Smith normale come quelli degli anni che furono, senza frequenzine, senza niente, a me non piace, poi per carità rispetto alle idee degli altri, ma si potrebbe comprare qualcosa di più sostanzioso. Va bene. Cosa stavi dicendo, Antonio Riserva? E cerca di mettere la benzina che sei sempre a secco. Eia. E poi c'è anche il 1100 che non so cosa faccia in più. Un attimo, un cotticino. Natalino, l'ho sentito fare capolino. Novità dal fronte? Niente. Ok, tutto tace, dai. Va bene, riprendi Giulio. Ok, visto, è rientrato Luca anche. Avanti Luca, dai, chiacchierato un pochino, così io mi ricordo. Scusate, ti sto restando, come va? Che è avanti? Io sto in maniva, gli ho patato in bocca. Prova, segnale 3. Gianni, si può dire che radio è? Ma non deve uscire così quel mitra, non deve uscire così, e magari boh, così sì. Non è bella la radio, boh. Allora stai prendendo un'alimentazione dalla Cindy Sigari. No, sta facendo un bel male già, un bel male. Ciao. No, non abbandonare l'idea. Però la radio si può migliorare. Si può, è molto, si deve migliorare, un bel. Il qua è 2, Marco, a te non lo so quanto ti arriva. No, perdonatemi un attimo, no, qua è Santiago 8, la radio sì, è un po' bruttina, ma non è bu. Non è bella la radio già, ma non hai nessun difetto qua, sì, Santiago 8. Io lo sento male. 8,5 Luca, fai che sia generoso, ma Santiago 3 all'anima, con lo Smith e tischio mi, te lo dico già. Settarato, se Claudio arriva sul più non è vuol dire la posizione, dai, cosa vuoi ti dica, non arriva così e noi il bus di 9:10, no? Chi è? Santiago 8, sì, qua, dai, se è migliore la radio va benissimo come segnale già. Claudio, non è facendo malissimo, ma male. Sì, beh, la radio non fa bu bu bu bu bu come te ce l'ho tu, è patatosa, mi. È molto stretta, molto chiusa, non c'ha nessuna tonalità, però il segnale è buono. Ma passa, ti portala dall'elettrauto quella macchina, fatti passare due cavi diretti dall'alimentazione, rosso e nero, e mettili dall'an 48, cazzo già. Quando con due bananine, quando te lo ne hai voglia, te lo attacchi e ti fai una chiacchierata in macchina, senza lasciarlo fisso. Allora, cosa... come ce l'avevo io nell'Audi, mica ce l'avevo fisso il baracchino, il VHF ce l'avevo fisso, ma il baracchino quando avevo voglia lo collevavo all'altra antenna che avevo dietro e ci avevo il capo della batteria, arrivava rosso e nero grosso con due bananine, capito? Maschio e femmina attaccato al baracchino, te l'attacchi, agganci l'antenna, lo appoggi le sedie e si fa vedere, o lo appoggi nel cruscotto. Una cosa volante ma allo stesso tempo buona, perché così non vai da nessuna parte. Adesso ti compro una batteria, te la metti nel tappettino. Ehi, ma per non avere problemi, vai dall'elettrauto, fai fare una cosa fatta bene, ti fai portare due cavi, un rosso e nero diretto dalla batteria, che arrivi dentro il cruscottino, ok? Dentro il cruscotto porta oggetti. Da lì prendi l'alimentazione e ti attacchi il baracchino là all'an 48, lo fai funzionare come funzionava prima, senza lineare, senza niente, ma almeno quando esci bene. No, fare l'impianto che avevi prima Gianni, ma fallo bene se vuoi, capito? Se vuoi fare una cosa fatta bene, perché quello lì o lo metti in condizione di uscire bene di radio, perché così la radio è brutta, capito? È bassa, brutta, non è bella. Vabbè, dai, ti volevo dare il segnale qua, comunque il segnale è Santiago 8, dai. Riprendi Giulio, io rimango in Querix. Buona serata a tutti. Ok, ciao qua. Santiago 6:30, Gianni, 6:30, la radio è... te l'hanno già detto come. Per cui qui da me 6:30 di segnale. Naturalmente è migliorabile, questo è ovvio. E io non lo ripeto, perché credo di averlo già detto di farti passare un cavo direttamente dalla batteria, per cui non te lo ripeto, ma però già hai capito. Avanti, Antonio. Allora, tanto sai cosa mi è successo? Una tipa stava vedendo una bicicletta di quelle che gli fuori da 20, no? E l'ho contattata, ero interessato, e l'ho vista uguale, costava 170, boh. E niente, mi sono messo d'accordo, ho detto che sono interessato, sì, allora la levo subito, lasciami il tuo numero, poi la rientro, mercoledì sarebbe oggi. Mi ha mandato un messaggio ieri, questa, ma una cosa per stare scendendo lì, mi ha trovato già venduta, ma se tu mi hai dato la parola a me, e poi mi ha anche bloccato, e mi ha mandato, ma se ti do la parola è quella, capito, così era la miserabile, costava troppo queste biciclette, questa qua era anche a marcia. Ma Luca, ho già detto una 20, casa c'ha le ruote di BMX? Sì. No, una bella mountain bike 26, magari biammortizzata, altro che BMX. A me se le pieghevo, la metto in cofano, e devo scendere dal ghiero, devo fare una passeggia di bicicletta, capito? Ah. Ho capito. Lo so, quella lì era. Ma non era a marcia però quella, era una pratica normale, dai. Cosa bene, tra me devo sempre averla a marcia, ma si può prendere anche quella. Già iniziato la pedalata pesante, invece quella la pedalata più leggera, capito? Poi se vuoi la più pesante cambi le marce e lo fai. Tanto non costa poco. Ma poi col tempo che la batteria, gai su conto. Cazzo costa la batteria che la bicicletta. Mi appargono, sì. Luca, prima mi hai illuso con quel video e poi... Un illuso a me, non posso illudere a te. Altri illuso anche Antonio, aspetta, era biglione, sì, oh yeah. Nella lametta. Non credi? No, Antonio, fatti luci, va. In sangue. Che vuoi? Tipo mitriaci. Sei qua. Parlate in due, non è passato né Natalino e né Antonio. Ha detto te qua, detto e voglio vedere una cosa. Non è male avvenire. No, fammi mandare il video completo. No, alla fine l'ho avuto completo, capisci a me. Luda, come la mamma l'ha fatto. A chi mado, sei scemo che vuoi di guio. Gianni, c'è ancora? Comunque, se Gianni migliora la radio, il 90% del lavoro è fatto. Sì, io l'altro giorno, per esempio, mando al produttore se lo stesso avevo questo. Questo è chiuso in modulazione. Il trimmer non è mica manetta, no? Magari. Però perdo l'omologazione. E mi sentivano, cioè niente, nessun problema. Certo, non è una modulazione amplificata, assolutamente, però Gianni è troppo vattato, era me, non spingeva nulla, proprio era patatoso, amico, come ha detto Claudio. No, è capibile, basta che parli vicino al mic che Gianni è capibile. Comunque a lui gli faceva difetto la presa della spina accendi sigari, cioè non era un rientro rete, toccava e non toccava, se no voglia, anche la accendi sigari 10 ampere, capirai, quello che è lui, il 48 plus, consumerà con 4 watt 1 ampere e mezzo massimo, 2 massimo. Anche. Poi non ho capito se gli era arrivata l'antenna Gianni, boh, la famosa turbo, il fusaro li ha dovuto ordinare, poi passano un giorno, una settimana, un mese, 6 mesi, un anno. Sì, vabbè, come i famosi cacciaviti antinduttivi di plastica dei GBC, 8 mesi, e io vedo che continuava a passare per vedere fin dove arrivava, poi però mi servivano, li ho presi da internet, per pochissimi euro peraltro, una manciata di euro. No, li ho presi da internet, cioè non li ho presi da GBC. Dopo 8 mesi hanno detto, non sono ancora arrivati, stavo per dire, ascolti, quando arrivano, no, ma per esempio, per correttezza, come dicono altri, dice, guarda, io dovrei fare un ordine grosso, non ti conviene, ti conviene pigliare da internet. Ecco, perché illudere, vabbè. Qua che ormai si compra quasi tutto online, c'è roba di baracchini, di cambi, non trovi nulla qua, nulla. Trovi solo gli Alan 48 a 190 euro. non me lo ricordate, lascia perdere. In tante occasioni mi sarei... Se Riccardino l'ascolto, allora parlo bene. Cioè, con gli stessi soldi, l'equivalente per la cena, eccetera, mi pagavo una signorina peripatetica. E tipo escort, capito? Poi c'è lì la cena, il cinemino e poi non me l'ha manco data, te l'immagino. Sono escort, più adatto c'è un wagon, Marco. Maria Mano, no adesso vabbè, non voglio Riccardo, perdonaci, non abbiamo detto parolacce però, eh. E io vabbè, poi già ne saprà anche, io a 13 anni lo stesso, insomma, non ero un santarellino nemmeno. No, io altro che chiesa, no, adesso, a parte che se vuoi fare il chierichetto devi andare, c'è con le mutande di ferro ai preti. No, io niente, ma io né cresima né comunione, perché non ci credevo. E per fortuna mi hanno fatto scegliere in casa. Ci hanno detto, se ci credi è bene, se hai una presa in giro per te, e per chi ci sta dietro alla chiesa. Aspetta, voce Anto. No, invece molti padri di amici, no? Tu devi fare la crisina, la comunione. Eccolo, non la voleva fare, allora schiaffone, tu invece la fai. Ecco come sono i cattolici, mi capito? Eppure io rientravo in quell'epoca, io sono dal 71, cioè... per fortuna mamma era una persona intelligente, mi ha detto se ci credi veramente è buono, se non ha preso in giro proprio, capito? A parte che molti vanno a fare la comunione per avere il regalo del padrino, lasciamo perdere tutto quello che c'è dietro, mio cugino compreso, eh. A parte che personalmente non ho niente da festeggiare, né compleanni, né natali, né niente, un anno più vecchio, un anno in vita in meno. Bene, Giulio c'è ancora, riprendi. Sì, che ci sono. E vabbè dai, ancora siete giovani, ecco cosa ci vuoi fare, meglio per voi. A proposito, non so se voi l'avete mai visto, in quel negozio che c'è in via Agrosello, da qua, quel negozio di elettrodomestici, eccetera, in vetrina c'è un, adesso non mi ricordo se è un Alan o un Midland 790, ma ci sarà, senza esagerare, minimo in quella vetrina, cioè 10-12 anni. Non l'ho mai venduto quello lì, quel baracchino. Dove Giulio? In via Arrosello, da qua, in quel negozio di elettricità. Sì, da quello lì, sì, da quel ragazzo lì, sì. Che poi non è tanto un ragazzo, avrà minimo avrà 50 anni. È tanto meglio, sì, sì. Io mi ricordo quando c'era il padre in via all'angolo lì di Porta Marcello, diciamo, dai. Porta Marcello. E allora lì avevamo comprato parecchie cose, molte radio, tante cose, insomma, lì da quell'uomo. Era caro, Però devo dire che ci siamo trovati sempre bene con i prodotti che vendeva. Sì, sì, sì. Ve lo ricordo bene. Adesso naturalmente lui non c'è più, e lui ce l'ha ereditato il figlio. Però appunto, io tutte le volte che passo il giro lo guardo, questo con la vetrina, ma c'è sempre quel baracchino, ma ci sarà minimo 10 anni, minimo, di più sì, ma di meno no, non l'ho mai venduto, c'è il prezzo anche, 146 mi sembra che lo sta vendendo, una cosa del genere, metto una scatola, su quella fianchi. Quella se che se ne mette il cazzo che c'è quella, no, ma magari nessuno gliel'ha mai chiesto, se non l'avrebbe tolto dalla vetrina, invece, e non mi dire che magari ne ha qualcun altro all'interno del negozio, ma non ci credo proprio, guarda, perché la Sassari non le compra nessuno, e quando compra la Sassari comprano da fuori, tutti comprano da fuori, oppure di seconda mano. Lo so, ho fatto il dire, no? Anche noi che usiamo il baracchino, non ci siamo mai, probabilmente io non ho mai sentito uno di noi dicendo ho comprato un baracchino lì in quel negozio, mai nessuno, mai. Penso che voi anche voi lo conosciate. E tu lo conosci, Marco? Il negozietto, avevo presente il negozietto ma non il gestore. Io invece non riesco a ricordare come si chiamava il nome del negozio, il cognome del titolare, di quel famoso, ti parlo degli anni 80, negozietto in via Principessa Maria che aveva cosettine elettroniche, forse anche baracchini. In via Principessa Maria? Era Costantino Fara, dove io avevo comprato, dove avevo speso i primi soldi per il baracchino, però era il secondo che avevo avuto, perché il primo l'avevo fatto in permuta con un barboletto che avevo fatto, e il secondo era l'Innoiti 294, e l'avevo pagato allora 150.000 lire, Costantino Fara. Quindi Fara, e proprio me l'ero dimenticato Giulio, proprio rimosso, troppo tempo passato. Invece io da quel negozietto avevo comprato, non esistevano nemmeno quelli a colori, mi pare, di televisorini LCD tascabili, televisorino LCD in bianco nero, della Citizen, una cosa primordiale proprio, una cosa allucinante, e costavano abbastanza pure. Va bene, dai, io vi lascio ragazzi, sì, già va bene. Vi lascio, rimango con X, ok? Vai Luca, riprendi. È un attimino che sto pulendo un LCD di un tablet che a giorni mi arriva al touch. Se non è pulito poi si vede l'ombra. Fallo girare un po', attento Antonio, che si serva, cazzo. Questo è il coso, il tip-on. Oh, ma solo tu o io devi riparare? Queste cose per no, non mi servono. Sono pericoloso io, voglio dire. È uguale, là, alla fine è uguale. Ah, tu non ricordi come si chiamava quel radiotecnico? Allora, via Principessa Maria, no? Dove c'era Costantino Fara, che era quasi all'angolo, nell'altro angolo opposto, c'era un radiotecnico che faceva anche il CB. Tu non ricordi come si chiamava? Adesso io non me lo ricordo più. Sto parlando di almeno 40 anni fa, forse qualcuno anche di più. Ok, vabbè. vabbè dai, vuol dire che lo chiederò ad una persona che ha un'altra età, un'età più avanzata, magari forse Tonino se lo ricorda, forse se lo ricorda Tonino Cavazzà che se lo ricorderà. C'ho sulla punta della lingua a me, ma non mi ricordo, faccia guardare il tecnico, riparava anche i baracchini, riparava, ma non me lo ricordo, vabbè dai, dopo poi mi verrà in mente. Avanti Luca. Quello era Dino, metà verde, quello lì era Dino, sì, quello sì, quello faceva il suo lavoro principale, era la radiotrasmissione, ma faceva anche qualche riparazione anche a TV e radio anche, però il suo lavoro, il suo primo lavoro era tecnico di radio trasmissione. Sì, me lo ricordo bene, Dino Beta Verde, e poi c'era Panther, c'era Mario M2 che riparavano, poi c'era questo che ti sto dicendo in via Principessa Maria, all'angolo proprio, che l'altra via non mi ricordo che via è, forse via Pocellana, non lo so, comunque. All'angolo opposto dove c'era Costantino Pala, e lui era CB e allo stesso tempo riparava anche i baracchini, era un traio tecnico di professione. Ok, sì, per certo. Poi qualcosina faceva anche, come si chiama, quello di Via Rosello, l'elettricista, qualcosina faceva anche lui, era radiotecnico di mestiere e faceva anche qualche riparazione, ma solo qualche amico lo faceva, Gasperini, non il vecchio, no, il figlio, quello che modulava, che non mi ricordo come usciva in frequenza. Esatto, quel tipo robusto, sì, è vero. Infatti. Poi io sono anche lavorato alla Gasperini, si può immaginare. Solo che io ero entrato come elettricista da Gasperini e mi aveva messo nel settore avvolgimento motori. A me fare l'avvolgimento motori non mi piaceva. Ci sono stato un mesetto o due mesi, non lo so di preciso, e allora dopo me ne sono andato. No, come manda il cantiere, io gli avevo detto, se no io vado via. No, guarda, al momento dice, in cantiere no, non ti mando, magari più là, sì, no, e allora vedo lì, se me ne sono andato, così di punto in bianco, senza stare attirato a parlare lunghe, perché gli avevo detto roba di 4-5 volte di mandarmi in cantiere e niente da fare. Lui voleva che io mi mettessi a fare avvolgimenti motori, ma io non voglio fare avvolgimenti motori, prima di tutto perché non lo so. Dice, ma impari, c'è il telkin con qualche te insegna. No, non voglio sapere io. A me non mi piaceva fare avvolgimenti motori. Per me era un mestiere monotono, per i miei gusti. Gasperini era un bravo tecnico, altro che il padre. Prima ancora Gasperini, prima di essere via Rosello, io l'ho conosciuto. Avevo un negozio in via Grazia Verga, ma sto parlando di tantissimi anni fa, ma tanti veramente. Pensa che allora via Grazia Verga ancora non era nemmeno asfaltata, era fatta tutta in terra battuta, se puoi immaginare di quanti anni sto parlando. Sì, e poi c'è anche quello, ma quando è venuto, aspetta come si chiamava, è morto a proposito, quell'uomo è morto, che ci vedeva poco, poveraccio. Vacca. Raffaele Vacca. Esatto, Raffaele Vacca, io l'ho conosciuto benissimo, lo vediamo tutti i giorni io, perché passava davanti a Falegnameria, poi, perché lui abitava evidentemente dalle parti di Gambaldella, credo, perlomeno vedevo che andava in fondo, in via Socesi, dritto in fondo, e ho pensato, ma forse abita in via Gambaldella da quelle parti lì? No! Lui abitava in via 4 novembre dove c'è il palazzo dei ciechi, perché lui era praticamente un semivedente, dai. Li conosco bene, dai. È il figlio di quella che abitava di fronte a mamma, quindi. Sì, lo so che era uno che non ci vedeva bene, perlomeno quando è arrivato ad una certa età, da giovane magari già ci vedeva. Però poi col tempo ha perso la vista. No, ma siccome io lo vedevo passare tutti i giorni, ed era più o meno mezzogiorno e mezza quando passava, tutti i santissimi giorni, io lo vedevo e poi mi salutava, ciao Giulio, buongiorno c'è un vacca, io le dicevo, da dentro bottega. E lui poi una volta incuriosito ha guardato, ma dove va a finire? Perché pensavo, ma forse gira De Pietro mica. E invece no, ho visto che andava molto in fondo giù, in via dei Seccelli, poi io dove abitava di preciso non te lo so dire. Abitava la madre al Sacro Cuore. Ma lo so già, non ti so dire niente, la verità. Sì, ma già lo so io. Io ero amico del figlio, Giulio, con Antonello, io conosco tutti i fratelli di Raffaele, a Gianni, a Pierino, quello che fa il pompiere, li conosco tutti, si abitavano di fronte a casa, alla porta di mamma, nel pianerotto, lo stesso del pianerotto. No, no, io lo conosco, l'ho conosciuto, perché quando facevo l'elettricità ci si incontravano, sai, essendo anche lui elettricista, perché lui era divertente, era elettricista. E dunque, diverse volte ci siamo incontrati, ci siamo, e ne abbiamo anche parlato, però poi avevo cambiato lavoro, però la conoscenza c'era ed era rimasta. Infatti lui era molto più grande di me, anche di età. Infatti io vedavo del lei, vedavo, lui a me vedava del tu, giustamente, perché era così, capito già? Cavagava, sì, comunque abitava via 4 novembre, è stato diverse volte a casa sua, perché appunto era amico del figlio. Il figlio stava più dalla mamma che abitava di fronte a casa di mia madre che da loro, perché loro lavoravano tutti e due, quindi stava sempre, io uscivo col figlio, andavamo in negozio, andavamo a casa sua, quindi so tutti i passi che faceva. Sono sicuro. Sì, beh certo, ci credo, se lo stai dicendo. Poi io lo vedevo, quando io frequentavo mia moglie, che poi eravamo fidanzati, eccetera, e di fronte ce la volava mia moglie nel negozio dei mobili, no? Ce la volava mia moglie, ce la volava. Per cui lo vedevo quando andavo a prendere mia moglie, lo vedevo anche. Mia moglie allora in quel periodo la mia fidanzata. E lo vedevo e tante volte attraversavo la strada per fare quattro chiacchiere con lui. Ti sto dicendo, io ci conoscevamo molto bene, però io a lui gli ho sempre dato del bene, lui a me mi ha dato del tu, perché quando ci siamo conosciuti ero abbastanza giovane, lui era già più grande di me, per cui non mi ero mai permesso di dargli del tu. E ti dico in più una cosa, il figlio era Manuel, l'amico di Shadow 2, è amico mio. Capito? Sì, adesso questo Manuel non me lo ricordo. Shadow, vabbè, poveraccio, è morto un paio d'anni fa. Giovane ancora, fermaci. Dopo che era diventato vice ispettore del commissario di polizia, vice commissario di polizia, si è ammalato, poveraccio, ed è morto. Io mi telefonavo molto spesso con Angelo, perché lui era lì ad Alessandria, era come di servizio, è anche sposato ad Alessandria, infatti la sua famiglia è lì, ha moglie e figli lì, sono rimasti lì. È morto un paio di anni fa, io l'ho saputo poi un giorno, adesso voglio vedere il sito di Angelo, perché mi diceva sempre, perché non entro su Facebook, guarda, mi avevo dato tutte le indicazioni, io aprivo la pagina e vedevo e leggevo, era una potenza, era il fatto di cose, di polizia, era veramente in gamba, però io su Facebook non ci sono mai entrato a parlare, a chattare con nessuno, però ci parlavo molto spesso al telefono, anzi quando veniva il figlio, verso luglio-agosto, veniva sempre a trovarmi da me, e Angelo io l'ho conosciuto da ragazzino all'incirca l'età del Riccardo, 13-14 anni, e già aveva il baracchino a sua età. Anche io lo conoscevo quando avevamo 14 anni, ti aveva l'età mia più o meno Angelo aveva l'età mia, ci trovavamo tutti in casa sua, c'era quel viottolo lungo dove c'era il carbonaio, prima non so se tu ricordi. A voi che me lo ricordo, grazie, praticamente era la parallela dove ero io. Sì, ma poi la madre si era trasferita, abita la parte alta di Sassari, le avevano dato la casa, le avevano dato, lui poi era partito, anche l'altro fratello era partito, l'altro fratello, lo stesso, non mi ricordo se è poliziotto o carabinieri. carabiniere, forse mangio il carabiniere. Era più con la guardia d'accesa della Polarma in via Lurva, nel negozio della rivendita del vino, il fratello. E poi anche lui è partito sotto le armi e anche lui penso che abbia fatto carriera sotto le armi. Credo però che sia carabiniere anziché poliziotto, non lo ricordo. Cava. E vabbè. Purtroppo la vita è così giù. Sto controllando una bici elettrica, anche da 7.000 euro ce ne sono. Che buccia. Cosa deve fare una bici elettrica? No, sto controllando. 7.990 euro. Più 35 euro di spese. Bici e bike Santa Cruz. Eclair. CCR kit 27,5 SIDS L, una L. Cazzo, 7.000 euro, una bicicletta. Cos'è la pazza? Ubi, si gioca a chiedere, aspetta, se ci fa 6.999. Aspetta. Ce l'ha comprata a Bombolino, bellina. Ma adesso mi vendo un po' di baracchini, mi vendo, adesso li metto su subito con tutti o qualcosa del genere, o già. E mi vendo anche la matovatura, guarda, intanto non me ne posso nulla. Ascolta, ma baracchini cosa stai vendendo? Ancora non ho deciso niente. Adesso quasi quasi ne metto qualcuno in vendita. Tanto cosa me ne faccio? Non è che hai microfoni da palmo buoni, no? Amplificati. Amplificato ne metto 100. Oh, da palmo, buono, ultimo anche lì. E c'è anche l'eco, eccetera. Poi ne ho qualche altro, fa male, sempre amplificato, ma niente di particolare, sono di quelli con una batteria da 1,5, va. Vabbè, venimi da 1,300. No, quello non si tocca. E allora va. Andave. Base ne hai? Sì, due. Due ne ho base. Ho il Cobra 139 e poi ho il Constat regolare 25B. No, il Cobra è bello. Quanto lo stai vendendo? Ah, non lo so, vediamo. Vediamo se metto quello in vendita o qualche altro. Adesso vediamo. No, mi piace, un barrasone, troppo grande. Quel tipo pianoforte lì è già. Lo conosco, è a forma di L, è tipo una console rimane. Esatto. Proprio quello. C'era Franco California uguale. Non lo so. Franco California pure vale 1,300, a me una volta hanno glielo dato perché quello non lo vendo. Non vendo un microfono M300. Gigi ne avrà 4 o 5 M300 ma non le vende. Ha detto che non li vende perché si vuole tenere tutto lui. Ha detto è una cosa, sono geloso di queste cose e non le vendo. E dammelo uno, non me l'ha voluto dare. Tu pensa che io in tantissimi anni che sono frequenza non ho mai venduto niente. Mai niente. Ho solo regalato un paio di baracchini a quel mio nipote che è lì a Calbugna e anche a un amico una volta mi avevo regalato, e anche a mio fratello che aveva due, le avevo date mio fratello, uno lo utilizzava nel motocarro perché aveva il negozio delle bombole e l'altro ce l'aveva il negozio e la moglie lavorava il negozio e lui distribuiva le bombole, portava le bombole e si metteva in contatto. Gli avevo dato due baracchini e anche l'antenna, gli avevo dato. Paga. Vabbè, è una questione di cose, io li vendo, me ne compro altri più belli, più nuovi, più che mi piacciono di più, capito? Sì, beh certo, anch'io sono dell'idea che bisogna andare avanti con i tempi moderni, quello sì. Premesso che le cose vintage, soprattutto quelle di base, sono belli, però a me non è che mi entusiasmano più di tanto, la verità. Belli, funzionano bene, tutto quello che vuoi, però non mi entusiasmano più di tanto. Non sono così appassionato di roba vintage. Io sono di più per la cosa sempre più, sempre moderna. Ah, io non è questione di vintage, mi deve piacere l'apparecchio, poi che sia vintage o che sia di nuova generazione non mi interessa, l'interessante è che mi piace, all'occhio mi deve piacere. E ci sono dei vintage che a me piacciono particolarmente, tipo il gas, garage per me la chicca. Sì, ma quello sì, il garage sì, perché a me piace. Però me ne piacciono solo due, il garage e il DAC. Non me lo fanno né caldo né freddo, anche se ce ne sono di belli e ce ne sono molto belli di baracchini e soprattutto di quelli del tipo americano eccetera, quelli sono molto belli, ma non mi fanno né caldo né freddo, mentre invece il DAC sì, quello sì, solo che quello del bambolo là è cosa vuoi ti dica, pazienza. Anche lui è innamorato di quel baracchino e giustamente se lo tiene, fa bene, devo essere sincero, nonostante che a me mi piace, però devo essere sincero, lui fa bene se lo tiene. C'ho buona vita a vedere la coppia per quel DAC, che non me l'ha mai voluto dare. Sì, vabbè. Ma no, non più di tanto adesso, perché è troppo ingombrante, se ci penso bene, è troppo ingombrante il DAC. Vuole messo sopra il ripiano, poi spolverato, cose, no. Perché dentro non ci sta, dove è il mobile non ci sta, è tutto pieno di baracchini il mobile, infatti avevano giudicato un po', adesso un po' li tolgo, li metto apposta. Comunque era l'attacco a cedi sigari, volevo provare se era quello che lo facevo uscire tra il baracchino e l'attacco a cedi sigari. L'ho provato nella batteria e va alla grande. Ma se te l'ho detto già, l'attacco a parte il fatto che è rischioso per la macchina, per la centralina, è molto rischioso, no, intanto. Ma te l'ho detto da tempo, te l'ho detto. E poi non si fa mai un collegamento così, perché il baracchino un certo amperaggio te lo consuma, mettilo direttamente dalla batteria. E lì c'è tutta un circuito elettronico nella centralina e tu vai a rischiare la centralina che costa un sacco di soldi, poi a metterla a posto o meglio a comprare una nuova, ma cosa? Per non passare un filo che è fattibilissimo farlo, che poi tra l'altro ti rende anche meglio il baracchino. Beh, ti faccio vedere la macchina mia perché è facilissimo, è tutto gatto, non c'è un posto per passare il filo, è tutto coperto, tutto scatolato, e quello è il casino, se no non me l'avrei messa fissa l'antenna, quella lì, guarda, quell'antennino lì è micidiale, imbatte un bel piccolina, leggera, e fa il suo dovere, perché io andavo a Platamona, parlavo con Sassa, tranquillamente dall'altra macchina, prima di decidere di mettere l'antenna al centro cappotto, c'avevo quella, e parlavo con tutti, capito? Parlavo con tutti, quindi l'antenna non è quella che ci vuole, l'antenna, ci vuole l'impianto e basta, un impianto ben fatto e tutto lì, però quello lì devo andare dall'elettrotto perché non devo fare pasticci, però deve fare bene, io ci devo scegliere davanti a guardare quello che fa. Ma non ti sto parlando di antenne, io ti sto parlando dell'alimentazione, del filo, un filo di batteria, dalla batteria per alimentare il baracchino, che sto dicendo, non ti sto parlando di antenne, lo so che l'antenna non la vuoi bucare, ed è un peccato bucare una macchina nuova, al limite mi comprerei i supporti per lo sportellone dietro, che li vendono tranquillamente, e poi voglio mettere l'antenna fissa, tra virgolette, ma poi mentre ci sono i supporti adatti per metterlo sul baule, sullo sportellone di dietro, dunque va anche bene lì, non è che al centro, va bene, pazienza, però messa in quella posizione va anche molto bene, e non rovini la macchina. Ah, come friggi le viti, sbucci la vernice e comincia la ruggine, no, lascia perdere, io non le metto così, la metto base magnetica, ma io intento a comprarmi un'antenna performante che andava bene, di quelle buone, solo che se c'è questa cosa, problema dell'elettricità, io volevo mettere una cosa volante giù, non una cosa, l'ho visto da mille autisti, mille cose, con i furgoni, la mettono nel furgone, l'attaccaci di sigare stanno andando, e qua deve essere bassa la tensione, non lo so, l'amperaggio è basso, perché nei furgoni li attaccano, io vedo, se tu guardi, fanno vedere quelle antenne GG, non mi ricordo come si chiamano, GGD, una cosa del GGD, quella che costruisce quel tipo, sembrano le Turbo 2001, sono uguali identiche, tutte le volte vi fanno vedere come funziona, vi fanno vedere il baracchino ed è attaccato alla CD sigaretta. Eia, ma stiamo parlando sempre di una cosa diversa. Tu mi stai parlando di antenne, io sto parlando di elettricità. Cosa ci vuole? Apri il cofano, capita. O vai da dentro l'altro, te lo fai fare se non lo sai fare tu. Se no quando apri il cofano fa il motore, un buco c'è, sicuramente c'è, dove far passare il filo. E se non c'è, te lo fai col trapano, con un buco da 10 mm nel fanno motore, chi te lo vede? Non lo vede nessuno, no? E ti fai passare un capo, ti fai passare abbastanza robusto, magari ci metti il gommino per isolare in modo che...